rap from Pixacuto, Kill Mauri from Murto Gang, Parte Blanca Rex. Ha, ha. Hey, oh, senti un po', man. Hey, Pixa è una dura realtà. Hey, oh, questa dura realtà ci fotte. Ci penso sempre, senza cash né lavoro, ma che faccio? Penso sempre a cosa avrei fatto se avessi studiato, se avessi continuato. Ma ormai quello è il passato, adesso sto al presente tra la disoccupazione, tra i problemi della mia regione. Organizzo ribellione, qua si sta male sotto lo stato criminale, dove chi sta al potere mangia come un maiale. Qua giù il fine mese critico, con la vita sempre in bilico. Beh, bevo e dimentico tutto quanto mi sta sulle spalle. Pesa di brutto e mi scalfisce la pelle. Sì, la pelle, ehi, sei l'unica soluzione. Partire, andarmene lontano, lontano da tutti. Beh, dovrò partire, ma nel cuore sempre la mia famiglia e i miei fratelli. E ovunque vada, per me sarete i miei gioielli. È una dura realtà, lotta per la libertà. Non mollare, esprimi tutte le tue qualità. E quando è tutto nero, quando non sembra vero, prega e speri che ti arrivi un aiuto dal cielo. È una dura realtà, lotta per la libertà. Non mollare, esprimi tutte le tue qualità. E quando è tutto nero, quando non sembra vero, prega e speri che ti arrivi un aiuto dal cielo. Bazzica per strada sopra un'alfa, la verità non passa. Pensi che si sta bene, per il sole una palma. Dura realtà, questo è dramma da bamba, dove i problemi abbracciano le paranoie in una sauna. Causa cauzione, effetto di desolazione. Porta per terapia d'urto il circolare del giarrone. E quanta gente che non c'è, la moce in mezzo. Succede se la vita alza più in alto il prezzo. Ma se parliamo di quello che viviamo, ci danno dei gangsta. E dovrei parlare di una lei che è mestra. Dura realtà per ogni figlio di papà. Nasconde dietro la città tutta la sua mediocrità. Fra, non c'è una guerra che valga la mia, per quanto sbagliata sia. Contro la polizia sei terra di conquista tipo Somalia. Dura realtà, Kill Mauri from Santiago, Piazza Italia. È una dura realtà, lotta per la libertà. Non mollare, esprimi tutte le tue qualità. E quando è tutto nero, quando non sembra vero, prega e speri che ti arrivi un aiuto dal cielo. È una dura realtà, lotta per la libertà. Non mollare, esprimi tutte le tue qualità. E quando è tutto nero, quando non sembra vero, prega e speri che ti arrivi un aiuto dal cielo.